finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Frequenze di Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Non sappiamo, sì, adesso lo sappiamo. Abbiamo dovuto alzare un pochino il canale del microfono. E siamo in onda, quindi, sulle frequenze di Onda Rossa. '87.9 della banda romana e laziale, come da tanti tanti anni. E prima ancora sui 93.3. Sempre della banda romana e laziale. Prima puntata del 2021. Sì, perché per una serie di vicissitudini, di concomitanze, al 20 di gennaio non siamo riusciti ancora ad andare in onda in questo 2021. Facciamo questa sera, questa notte, a cavallo fra il mercoledì e il giovedì, come sempre, ricordando, o quasi sempre, ricordando che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, che è un'eccezione così del panorama radiofonico nostrano, qui appunto, a parte rare eccezioni, nella radiofonia prevalgono quelle che sono le scelte di tipo commerciale o imprenditoriale. Radio Onda Rossa diversamente nasce di radio, come radio di movimento, e in qualche maniera vi permane come radio di parte, esplicitamente. Per far ciò però non e per garantire la sua indipendenza e la sua autonomia non può far ricorso, diciamo, a quelli che sono i finanziamenti tipici delle radio, e quindi o i finanziamenti di partiti pubblici o la pubblicità. Questo significa che dal 1977 Radio Onda Rossa è così, perché siete voi tutte, noi tutti, che noi e tutte che la sosteniamo, chi con il proprio contributo alla radio stessa, chi versando comunque un sostegno, un sostentamento economico alla radio di cui ha bisogno per pagare le spese vive. Lo fate da 43 anni, continuate a farlo, quindi questa è la cosa che ci muove di più di tutti nel continuare a fare quello che facciamo, a cercare di farlo sempre nella maniera migliore. Nella fattispecie noi lo facciamo sempre peggio, ma questo è un po' l'inversione di senso che fa parte di 25 o'clock, quindi per noi migliorare significa peggiorare. Vabbè, 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma, Sallollo. Che è anche l'indirizzo della radio, via dei Volsci 56, dove potete venire a di persona a sottoscrivere per la radio, a prendere la scarceranda, il calendario, insomma, quanto di fresco abbiamo prodotto in queste ultime settimane. Ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni via email. 25 o'clock@ondarossa.info per insultare il sottoscritto. 06 491750, il numero telefonico della radio. www.ondarossa.info, il sito dove trovate tutte le informazioni che io vi ho dato confusamente riguardo al sostentamento della radio. If you call me, I'll come running. And you can call me anytime. These 16 strings we're strumming, they will back up every line, every line, every line. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. My affection, and it wants to break my heart. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. Cause I sure don't have the time. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Can you spare the time? siamo, quindi The Raconteurs, Help Me Stranger, per cominciare questo 2021 di 25 O'Clock. Ve lo diciamo, andremo in voce poco, vi diremo poco, come ci eravamo ripromessi peraltro a inizio stagione. Poi il Covid, gli impicci, imbrogli, le chiusure, insomma non si possono fare progetti in questo periodo. Era ora, di alcun tipo, questo è scontato. A meno che di non rivedere la cronoscaletta, cancellare, come d'altronde facciamo sempre da queste parti, qualche errore si fa sempre, quindi. Ma sei uno stupido. Cambiare in corsa non è poi così tanto un problema. Cambia il corso. Dicevamo, avevamo preparato una puntata già da un paio di settimane, ma ci siamo. All'incrocio non c'era nessuno. Abbiamo inserito, inzeppato quindi una ora di mixtape. Aspetti se vuoi, o riparti. Una scaletta dark folk, rock occultistico anni 70. Abbiamo dato una scorsa a quanto ci è stato proposto e che del fiume, ma tu, al nostro fantasma ovviamente, e che con piacere andiamo a trasmettere, roba di che si concentra proprio alla metà degli anni 70, quando probabilmente questo tipo di tendenza di suoni, di ora tirano fuori ancora una volta. Vabbè, vi chiederete intanto chi è che sta andando sotto, eh? Voteranno un nuovo padrone. Chi è affezionato lo sa, cambia il corso del fiume, Rock and Ritz. Ti fermi ancora nei bar a parlare con gli operai. Vabbè, insomma, poi sentiremo questa proposta più tardi, fra un po'. Qualche traccia ancora per noi e poi si parte con questa Wish Folk mixtape. D'altronde sembra arrivare un mese di gennaio freddo e come in queste circostanze stasera piovoso. Troppo odio, terra, cancelli serrati, troppi cervelli bruciati e tu prendi e ti rimetti a suonare. Vi lasciamo con Rock and Ritz, dai, per qualche minuto ancora. Onda rossa, 25 o'clock. Perché cambia il corso del fiume, ma tu non vuoi cambiare. Povero fesso, ancor prima che i giudici ti avranno, puoi cambiare il corso del tuo passo e sperare di trovare sull'altra riva un altro pazzo, altri dannati che come te son nati. We'll be right back. don't change the chords anymore. The chords change by themselves. The time luxury affords anymore turns towards all the whistles and bells. I can't even remember my best past retort. I'm in a resort town at the hotel last resort. Who did I not call? What did I not write? Blue spring, gold fall, green summer, winter, white summer, singing in another language, I think, might be English. The ship is leaking, tonnage and tankage, they sing, lightly sing. Ship's flag flies at half-mast, report, but no message can be sent from the hotel last resort. You wrote me so many letters, I keep them in a bag. New hopes, so many feel betters, but yet some the only things that last. Stay in motion, bodies at rest. That's inertia, inertia, inertia. Did I win $1 million? Yes, you did. And now you go to where the lodgings are deluxe. And join me in my bed where we will blaze, blast, contort, alive or dead. In the hotel last resort. I don't like to snorkel. I don't want to swim. I don't laugh, but I chortle when I pass by the gym. I don't take a tour. Has been pulled, all agents must abort, and I'm losing my patience at the hotel Lost Resort. I've become invisible because one is not divisible. I wander like the Jew, I ponder on my muse, I pander to the few, I divide myself by two. Half a half is still half, and a chortle is still real laugh. Yo, bro, where the hoes at? Ask the sport. Nobody knows that at the hotel last resort. In my tomorrows I got here, I checked out before I checked in. Pavel likes beer and sorrows for things Slovakian. He could have been my best friend of human wrongs. I wish we had spoke. Fine weather in the west wind, my Cuban songs I sing for the Pope. Get some rest in this castle, this social fort. Wishing you all the best from the hotel last resort. I don't change the chords anymore. The chords change by themselves. Thank you. 2020 la pubblicazione del disco. Omonimo Hotel Last Resort. E la omonima traccia che abbiamo ascoltato appunto con Tom Verlaine e dopo Tom Verlaine. E Joan Pham, Tom Verlaine invece nella versione quella storica. Dei Television nel 1977 di Mark Moon. Questa invece è un'edizione più recente, se non andiamo errati, del 2004-2003, in cui rip, propongono. Marco e Moon con una serie di tracce aggiunte, fra cui questa Little John Jewels, parte 1 e 2, questa è la parte 2 strumentale. See, I'm looking lost. You ain't gotta come on so boss. Oh, you know that he's paid. You know that he's paid the price. All you gotta do for that guy. Is wink your eye. Qui extended play, come si diceva, della marca Moon di Edit più recente, ci sta questa strumentale untitled. Bene, è il momento di presentare quindi la playlist che ci ha proposto il Fantasma. Cominceremo con Straub's Witchwood del 1971, Astroroot, Lady of the Moon del 75, Mark Free, The Witch 1972, The Sun Also Rises, Death del 1970, Julian Stratman, The Black Tower del 1975, Wrath, Warlord del 75, sempre The Ghost. When You're Dead del 1977, scusate. E poi Sun Forest, Magician in the Mountain del 70, sempre Witch di nuovo. Strange Dream del 75 dalla Zambia, addirittura Sales Mass, Bear Tree del 71, Fear Before Swine, Ring Thing del 1968, 10 anni dopo Popol Vuh Mantra secondo del 1978 appunto, e poi Giuliano Sorgini, Enea del 73. Quindi vi lasciamo a questa lunga produzione, si tratta all'incirca di 54 minuti per la esattezza. E poi ci risentiamo, comunque troverete la playlist pubblicata sul sito insieme alla trasmissione tutta. E questo quindi è il mix delle streghe, Witch Folk Mixtape. Fantasma Edit.

Come on. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Questo è il Witch Folk Mixtape. ...1972 The Witch, Fantasma Edit. Sorseggiate la pozione che più preferite per questo viaggio. Lisergico e tribale. Drift. mentre vi esibite nelle vostre danze lascive, forzeggiando la pozione di cui sopra. Living in lust as Satan must, or the gods shall turn you into dust. Spero che abbiate acceso anche dei falò. Magari nella stanza dove state ascoltando. Attenzione con gli estintori. Slimy seas, warlord, hold your head in shame, for the gods that you cannot tame. Dig your grave, your time has come, there's nowhere left for you to run. Wish Folk Mixtape 2021 Fantasma Edit, da ascoltare tutto d'un fiato. We'll be right back. sure to hide my face in life. You're so nice. Sat under the mountain, seeing water run. And we saw snails being caught. All of a sudden, the devil kissed my face. Ooh, she was gone. Radio Andarossa 25 o'clock, all'ascolto anche Jacopo Magnetizer. Come è uscito brutto Magnetizer in streaming da lontano. Oh.

La programmazione della radio finisce qui, quindi come dicevamo si riprende fra poche ore, dopo che vi avrà tenuto compagnia la compagna automatica Sonata con le sue selezioni musicali e le sue repliche. Dicevamo, si ricomincia alle 8 con la lettura delle pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, alle 10 redazionali della mattina, alle 14 tutta scena, cinema, alle 16 Attica Blues, oltre alla Black Music, alle 17 la Eschina del Sole. Alle 18 il Mezzedes, i redazionali della sera, del pomeriggio di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa alle 20. Apostasia alle 23, questo è il palinsesto, almeno quello nominale di Radio Onda Rossa, come sapete, non sempre riusciamo a rispettarlo. Mercoledì prossimo, chissà. Non sappiamo nemmeno se le concomitanze di dati e impegni di vario genere ci permetteranno di trasmettere. Noi ci proviamo come al solito. Eagle Bird, The Black Keys a chiudere e poi ce ne andiamo sotto la luna comunista, under a communist moon. Bella a tutti e a tutte, a mercoledì, quando sarà? dreams, I'll share our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.